Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Negli ultimi 25 anni, soltanto nel sud-est asiatico, sono state attaccate più di 17.000 navi. I nuovi pirati non hanno il fascino di quelli che popolavano i romanzi di avventura, ma in compenso sono molto più spietati. E la nuova pirateria ha dei costi economici e sociali elevatissimi. I pirati moderni sono vicini, più di quanto si possa immaginare. I loro abbordaggi non solo hanno effetti diretti sulla nostra vita quotidiana, l'ennesimo assalto dei guerriglieri del Movimento per l'Emancipazione del Niger a petroliere o alle piattaforme nigeriane può far schizzare in alto il prezzo del greggio, ma possono anche colpirci direttamente, magari in vacanza, quando siamo deboli. Non sospettavano certo di essere attaccati a colpi di bazooka i 161 passeggeri della nave da crociera Seabourn Spirit della Miami Seabourn Cruise Line. Anche prenotare un allettante last minute per una destinazione a rischio può trasformarsi in tragedia. Lo sanno bene gli 11 turisti rapiti nel villaggio di Sipadan, nel Borneo, e trattenuti per mesi a riso e sardine nella giungla di Jolo dai militanti di Abu Sayyaf. E ancora, lo skipper del taxi boat indonesiano che ci accompagna a fare snorkeling nell'arcipelago delle Riau potrebbe essere un pericoloso bucaniere, così come vuole la tradizione di Batam. Centinaia di attacchi pirati, a volte mortali, hanno infranto il sogno di una crociera a vela nel Mediterraneo, e ancora più nei Caraibi, dove qualcuno pensava di godersi un charter natalizio a bordo di un catamarano. Non parliamo di destinazioni sperdute, ma dell'isola Margarita in Venezuela, o di Saint Vincent, o di Santa Lucia nelle piccole Antille. Non se ne sa nulla. Nessuna agenzia di noleggio o tour operator informa del rischio pirateria. Eppure è così reale che a farne le spese è stato uno straordinario velista che sognava oceani liberi dalla plastica e dal petrolio, il neozelandese Peter Blake, ucciso dai ratos de agua, topi di fiume, a bordo della sua Sea Master all'imboccatura del Rio delle Amazzoni. I marittimi che ogni giorno battono le rotte commerciali conoscono bene questi pericoli. Non c'è capitano, ufficiale o marinaio che non sia stato coinvolto in un abbordaggio di lieve o grave intensità. Storie che non fanno notizia, a volte neppure denunciate dagli armatori, esistenze trafitte da una violenza cieca, un dolore che stenta a condividere anche con le persone care. Magari poche parole, un silenzio più lungo di altri al cellulare, una lettera scarna a moglie e figli, come quella del capitano Alan McCarrett ritrovata nel rogo della petroliera Nagasaki Spirit fatta schiantare dai pirati di Sumatra nello stretto di Malacca. La pirateria è una guerra silente. Si stima che negli ultimi 25 anni, nelle sole acque del sud-est asiatico, siano state attaccate più di 17.000 navi, con una media di 700 per anno. Migliaia di morti, dispersi lasciati alla deriva su zattere di fortuna o scaraventati in mare, come i 23 marinai del Chong Son ritrovati putrefatti nelle reti dei pescatori. Di molte vittime non si conosce neanche il nome. Esse fanno parte dell'esercito di marittimi del terzo mondo, indiani, indonesiani, filippini, imbarcati con uno stipendio da fame e senza garanzie su navi registrate in Liberia, Panama, Bolivia. Il 90% del naviglio mondiale batte bandiere ombra, trasporta equipaggi con identità sfumate, carichi misteriosi che contribuiscono all'imperante anarchia di mari e oceani. Per le marine del mondo le difficoltà di intervento in acque internazionali, quanto l'impossibilità di varcare quelle territoriali degli stati canaglia, sono altrettante frecce nella faretra dei nuovi pirati. Essi sono in grado non solo di abbordare e depredare una nave, ma anche di dirottarla per ottenere un riscatto o farla sparire per sempre. Si chiamano ghost ships, navi fantasma, nelle mani delle mafie del Mar Cinese, i cosiddetti sindacati, che hanno una struttura e un'organizzazione ben radicate e complicità istituzionali e nel mondo degli affari dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti. Le loro prede sono porta container, general cargo, bulk carrier, tanker, milioni di dollari che galleggiano, carichi facilmente rivendibili, casse di bordo come scrigni di tesori. Così doveva vederle anche il capitano Emilio Cheng Ko, uno dei più famosi pirati delle Filippine negli anni Ottanta. Si dice portasse i suoi clienti allo Sky Bar dell'Hilton Bayview Park Hotel a Manila e da lì facesse scegliere le prede come al supermarket. Quale di queste le piacerebbe? Chiedeva puntando il dito nell'oscurità mentre sorseggiava un mojito. Sul mare non operano solo bande criminali. La pirateria è divenuta un metodo per finanziare l'attività di organizzazioni terroristiche che sempre più spesso hanno porti o navi come obiettivi. Il pensiero corre subito alle circa 900 persone a bordo del Super Ferry 14, fatto esplodere con una TV al tritolo nelle acque di Manila. Il terrore dal mare ci scopre vulnerabili, specialmente nell'era dei container che possono trasportare di tutto e non sono suscettibili di controlli, pena la paralisi dei traffici. All'interno di uno di essi è stato trovato perfino un terrorista di Al-Qaeda, soprannominato Container Bob, che si spostava indisturbato nel suo scatolone d'acciaio, con letto e toilette. Solo i pericoli derivanti dalle minacce globali possono provocare un'inversione di tendenza. Dopo l'11 settembre, le norme internazionali in materia di security, specialmente nei porti, sono divenute più restrittive, ma il cammino è ancora lungo e lastricato di insidie. Il mare, in realtà, è una giungla. Le marine sono oggi impegnate a fronteggiare tutti i crimini marittimi e anche la pirateria, ma c'è chi da 30 anni la combatte ogni giorno, ed è l'International Maritime Bureau, guidato dal capitano Mukundan Pottengal, con sede a Londra, sul Tamigi, e in Malesia, a Kuala Lumpur, dove ha creato un centro operativo antipirateria. Questa istituzione, diretta emanazione della Camera di Commercio Internazionale e interamente finanziata dal mondo armatoriale e assicurativo, è svincolata dalla burocrazia e dalle pressioni dei governi. Oltre a combattere e scovare i bucanieri, fornisce informazioni trasparenti e dettagliate sul loro conto. Nel sito internet www.icc-ccs.org è possibile consultare i report più aggiornati che utilizzano a supporto le mappe di Google. Le mappe e i dati del Bureau, le segnalazioni dei manager antipirateria guidati da Pottengal, nome di battaglia Capitan Muku, sono il filo rosso che lega il viaggio tra i moderni bucanieri. Così come viene assunta a base di questa indagine la nozione di pirateria adottata dall'IMB, che amplia la sfera di applicazione prevista dalle convenzioni internazionali, comprendendo tutti i casi di armed robbery at sea, e cioè ogni atto di abbordaggio di qualsiasi nave con l'intento di commettere un furto o altro delitto, avendo la capacità di usare la forza nel corso dell'azione, indipendentemente dalle motivazioni per il quale esso viene effettuato. Le nuove Tortuga, a cui diamo lo stesso nome della leggendaria base del pirata gallese Henry Morgan, sono oggi concentrate in Africa e nel Mar Cinese, a ridosso di importanti vie commerciali come lo Stretto di Malacca, che separa Malesia e Indonesia, con un canale di 500 miglia. Qui l'IMB, tra il 2002 e il 2007, ha registrato ben 258 attacchi con oltre 200 marinai presi in ostaggio e 8 assassinati, tanto che nel giugno del 2005 il ramo assicurativo dei Lloyd's lo ha classificato come zona di guerra. Un disastro economico già avvenuto alla fine degli anni 90, quando i club dei P&I, dopo aver pagato consistenti indennizzi, decisero di aumentare i premi assicurativi dal 10 al 20% per le destinazioni asiatiche a rischio. Quell'anno, gli armatori della Federation of Asian Ship Owners Association, che rappresentano il 40% della flotta mondiale, subirono un notevole aumento di spesa. La pirateria ha costi economici e sociali altissimi. Si annida e prospera come una tenia nelle acque di quelle nazioni dove vi è forte instabilità causata da guerre e carestie, per esempio in Somalia, oppure dove i governi sono deboli e corrotti, come in Nigeria o in Indonesia. Sono questi tre paesi i più pericolosi. Da anni detengono il record degli abbordaggi, che nel 2008 sono aumentati dell'11% rispetto all'anno precedente, passando da 263 a 293, circa 4 attacchi pirati alla settimana. Ciò che desta preoccupazione è l'incremento della violenza e dell'uso di armi da fuoco. Nel 2008 sono state utilizzate in ben 139 occasioni, anche se la responsabilità è per gran parte dei jin somali, a cui l'industria dei sequestri di navi nel 2008 ha fruttato più di 86 milioni di euro. I dati e le cifre da soli non riescono a inquadrare un fenomeno che ha radici in profonde diseguaglianze, traffici di armi, rifiuti ed esseri umani, o nei vantaggi che il nostro sistema economico ottiene dai buchi neri della terra, intere regioni e paesi senza Stato né controlli, spazi marittimi senza regole. Per accrescere la consapevolezza di quanto avviene, bisogna cercare le storie, visitare latitudini lontane, delle quali non conosciamo e spesso non vogliamo sapere nulla, tranne poi stupirci se nel terzo millennio ci sono ancora i pirati. La lunga navigazione inizia sulle coste della regione del Puntland, dove il Corno d'Africa fronteggia lo Yemen e l'isola di Socotra prosegue a bordo di un mercantile italiano sino a Lagos, in Nigeria. Si sposta nel Mar Cinese, a Kuala Lumpur, in Malesia, e da lì nel folto delle foreste del Borneo per incontrare i discendenti di Sandokan. E ancora in Thailandia, sulle tracce di un eccidio dimenticato, nei bordelli delle schiave bambine di Nagoya. E alla fine, dopo il sogno infranto di una fuga ai Caraibi, l'ultimo scalo è Venezia, dove le marine occidentali dichiarano guerra alla pirateria sulle note dell'Inzer di Mozart. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Niccolò Carnimeo, Nei mari dei pirati, i nuovi predoni degli oceani, Longanesi Editore, 256 pagine, 17,60 euro.